inizia a camminare. Tonon e Romeo seguono. Ah, proprio come un papà, eh. Oh, ma se colpa tua, non ti ricordi mai sta parola d'ordine? Ma se tu l'hai chiamato tenente. Oh, tenente, sergente, capitano, tanto sempre qua, siamo. Sì, ma adesso cosa facciamo? Adesso Romeo cammina e Tasi. Romeo cammina, cammina, cammina, però a un certo punto non ce la fa più a star zitto. Signor capitano, ma siamo in punizione. Ormai dovreste sapere che le regole servono a qualcosa, no? Tornate ai posti. E tu, impara a riconoscere un capitano. Romeo salutano e si infilano in trincea. Dai, Tonò, ripassiamo i gradi. No, no, ora, Romeo, no go voia, proprio no go voia. Tonò, hai sentito cosa ha detto il capitano? Che se no li impari poi... Oh, Romeo, cioè, non so boh, non mi ricordo, non so boh. Tonò, è facile, ti aiuto io. Il primo, chi è? Primo, aspetta. Primo, aspetta. Sto qua, soldà. Semplice. Oh, me, soldà. Semplice, poi, aspetta, sto guarda qua. Soldà, semplice. Caporal. Caporal e caporal. Caporal. Caporal maggiore. Bravo, poi. Non mi ricordo. Aiutami, no? Allora, sergente, sì. Sergente sarà. Boh, sergente maggiore sarà. Maggiore, esame. Maresciallo! Maresciallo, tenente! No! Come no? Sottotenente, tenente, capitano, bravo Romeo, bravi, grazie. Arriva il capitano e si mette a fumare assieme agli altri. Tonon lo guarda, prende un gran respiro e parte.

Con Stefano Cioffi, direttore artistico della 26esima edizione di Flautissimo, Sogna a Occhi Aperti, a Roma dal 27 ottobre al 15 dicembre 2024. Ben trovato. Grazie, bentrovati a voi. Spieghiamo cos'è questo festival. Flautissimo, a molti è già conosciuto, è un quarto di secolo di storia che ci portiamo sulle spalle e le portiamo con grande leggerezza, per fortuna, perché il peso della storia è sempre un grande piacere da portarsi appresso. E lo portiamo con un contributo di tantissimi artisti che ci hanno accompagnato in queste lunghissime stagioni di spettacolo. E sulla scorta e sulla scia di tutto quello che vi abbiamo proposto in tantissimi anni e tantissime stagioni di spettacolo, siamo anche quest'anno pronti a presentarvi un cartellone di grande prestigio. Come si caratterizza questa edizione? Con grande piacere e con anche un pizzico di orgoglio si presenta molto femminile. Ho fatto tanto in tanti anni, ma quest'anno mi sono impuntato. Ho detto deve esserci una presenza almeno superiore al 50% delle presenze femminili. E così è stato. Abbiamo delle attrici straordinarie, delle musiciste fantastiche, giovani, affermate, italiane, ma anche molte strumentiste che vengono dal resto d'Europa. Com'è stata la scelta artistica? La scelta è corsa lungo il filo rosso che lega un po' tutti gli spettacoli e che è abbracciata in questo titolo che ci accompagna dall'anno scorso e che fa parte di un progetto triennale. E il titolo è proprio Sogno a occhi aperti. Questa ambivalenza della prima parola che sia nome che prima persona indicativa, cioè io sogno oppure il sogno a occhi aperti. È così un grido e una parola di speranza per poter cominciare a rivedere un po' con altra luce il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. Durante anni che ci hanno un po' condizionato con una cronaca disastrosa, soprattutto internazionale, gravissima, abbiamo pensato che ci volesse così, un po' anche una ritrovata capacità e predisposizione per sapersi lasciare andare alle fantasticherie e cosa di meglio che non provare a proseguire quello che succede nella notte anche durante il giorno e adoperarsi per sognare a occhi aperti, appunto. Quale sarà la cadenza e i luoghi? Il festival, come negli altri anni, è un festival diffuso tra diversi teatri della città di Roma. Cominceremo e termineremo al Teatro Palladium, dove saremo presenti anche in altre date, e ci alterneremo con il Teatro Vascello, il Teatro del Lido, il Teatro Torlonia e il Teatro India. La prima data è il 27 ottobre alle 17:30 al Teatro Palladium, con un graditissimo ritorno, una presenza a noi cara e amata, che è quella di Maria Paiano, una delle maggiori interpreti teatrali della scena nazionale, che si presenta e ci presenta con un testo di Ennio Flaiano, un piccolo romanzo breve o un lungo racconto, Una è una notte, che ci porta in questa dimensione tipica di Flaiano, che è quella di saperci accompagnare per mano in un crinale che da un lato ci porta attraverso una dimensione onirica e dall'altro ci rimette in una invece condizione di realtà e ci fa sempre oscillare proprio tra sogno e realtà. Poi avremo Lucia Mascino al Teatro Vascello il 4 novembre e al Teatro del Lido il 3 novembre. Il 17 novembre ci sarà Paola Minaccioni con una data, perché non è una serata perché è una domenica pomeriggio alle 17:30, dedicata a Gioachino Belli, con un accompagnamento di Valerio Guaraldi, Claudio Giusti e Gianfranco Vozza dal vivo, ad arricchire questa presenza sulla scena e questa proposta artistica di Paola Minaccioni. Avremo una nostra produzione, una nostra commissione tutta al femminile al Teatro Torlonia il 27, 28 e 29 novembre, con la presenza di Zoe Zolferino e Grazia Capraro, dirette da Giulia Bartolini, che è anche l'autrice che firma il titolo in scena al Teatro Torlonia in quei giorni, e il titolo è In fondo al campo. Una storia tutta al femminile, tutta under 35, una grande scommessa, un grande piacere da parte mia e dello staff di di Flautissimo per aver così in qualche modo propiziato con questa commissione una nuova presenza giovanile e appunto, come già specificato in precedenza, femminile dentro al nostro cartellone. Segue al Teatro India il 3 e 4 dicembre un altro graditissimo ritorno per noi, quello di Peppe Servillo, con un'altra prima nazionale, Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, accompagnata alla chitarra da Cristiano Califano. Il fuoco che ti porti dentro, che è stato anche finalista al Campiello, e è uno dei titoli che ha accompagnato la lista dei best seller letterari italiani del 2024. E infine chiuderemo con Max Paiella in Ruota Libera il 15 dicembre, sempre al Teatro Palladium. I riferimenti web per il programma? Flautissimo.it. 26esima edizione del Festival Flautissimo, Sogni a occhi aperti, a Roma dal 27 ottobre al 15 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Cioffi. A presto! A presto, vi aspettiamo numerosi in scena per il nostro festival. Con Marcello Cava, uno dei curatori di Ascolto il tuo cuore città, drammaturgie per i luoghi tra memoria e presente, a Roma dal 23 ottobre al 24 dicembre 2024, ben trovato. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è questo progetto. È un progetto che per la seconda annualità si svolge con il contributo del Comune di Roma, è stato da noi del Teatro Mobile, è un progetto mio e di Pina Catanzariti e riguarda praticamente la realizzazione di almeno una ventina di viaggi in cuffia che si svolgeranno in luoghi diversi della città. Proprio l'idea quindi nel nostro format di ascolto in cuffia, quindi camminando o visitando luoghi, si assiste a eventi pensati appositamente per questi luoghi e che noi andremo a realizzare con un calendario di eventi che pubblichiamo ovviamente nel nostro sito teatromobile.eu e che sono uno diverso dall'altro. Iniziamo all'Istituto dei Beni Sonori con un omaggio a Giovanna Marini e Troiani, per poi dalla sera stessa realizzare all'Isola Tiberina una corradiana con Cuore di Tenebra e Linea d'Ombra da Corrad, di cui ricorrono i 100 anni dalla morte, proprio nell'isola, quindi su questa nave virtuale che è l'Isola Tiberina, e poi venerdì e sabato al Roseto Comunale, nell'apertura straordinaria che realizza il Comune ad ottobre, presentiamo il doppio sogno di fine estate con una drammaturgia di Pina Catanzariti e un viaggio in cuffia ispirato a Shakespeare e ad Apuleio. Questi sono i primi appuntamenti. A seguire poi si svolgono un'altra serie di eventi e si andranno a concludere a Natale con la riproposizione del racconto di Natale di Sartre che abbiamo già fatto l'anno scorso. Nel complesso quanti sono i lavori? Sono 20 eventi diversissimi tra loro che toccano Ostia Antica, il Santa Maria della Pietà per i 100 anni di Basaglia, ingegneria aerospaziale, il quartiere Coppedè, il rione Squilino, San Pietro in Vincoli, il Circo Massimo, dei luoghi più diversi del centro e della periferia della città. Com'è stata la scelta artistica? La scelta è derivata appunto dai luoghi, perché noi pensiamo alla drammaturgia legata ai luoghi e quindi in base al luogo che troviamo cerchiamo di trovare la cosa giusta da realizzarci e ovviamente quindi nel panorama infinito di luoghi della città andiamo a individuare quelli che ci sembra possano produrre dei significati particolari per la nostra ricerca. E i luoghi come sono stati scelti? Sulla base delle disponibilità e delle collaborazioni che andiamo attivando anche con l'Università della Sapienza, per esempio, e con l'Associazione Cultura del Viaggio, con l'Urban Experience di Carlo Infante, e sono luoghi diversi tra loro perché sono con caratteristiche completamente diverse, da luoghi archeologici che sono un po' il nostro biglietto da visita, a spazi museali, a spazi aperti, a spazi di archeologia industriale, insomma, sono veramente variegatissimi. Per esempio Ingegneria Spaziale e l'Aeroporto dell'Urbe ospiteranno due eventi particolari e i testi sono scelti da Brecht, a Sartre, a Conrad, appunto a Shakespeare, cioè veramente un patrimonio diversificato perché il nostro format è leggero, senza allestimento, eccetera, ci permette di osare e di essere assolutamente audaci anche nelle scelte drammaturgiche. Ecco, quali saranno le modalità di ogni evento? L'evento si svolge sempre con il format particolare, i prenotati gratuitamente ricevono un'audiocuffia e vengono portati da noi diciamo in movimento, quindi da un punto di vista formale è simile a una visita guidata, però poi nella realtà, grazie alla console mobile, all'amplificazione degli attori e dei musicisti, si assiste ad un vero e proprio spettacolo, anche se la percezione è particolare, perché è un po' una visita, un po' un'installazione artistica, un po' un set cinematografico, un po' uno spettacolo, un po' un concerto, diciamo che è una forma veramente multidisciplinare di percezione, e lo spettatore ottiene appunto questa audiocuffia, e con l'audiocuffia riesce a percepire questo evento con una fruizione solitaria ma molto forte, sonora molto molto importante, e senza alcun impatto acustico e senza nessun disturbo per il resto della città, quindi una sorta di silent theater che noi andiamo a realizzare. Seconda edizione di Ascolto il tuo cuore città a Roma dal 23 ottobre al 24 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Marcello Cava di Teatro Mobile. A presto. Grazie a tutti, a presto. Grazie Federico, ciao. Con Marco del gruppo Ippolita per presentare il libro Come distruggere il capitalismo della sorveglianza di Cory Doctorow a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 6 novembre 2024. Ben trovato. Grazie, ciao a tutte e tutti tutto. Che libro è questo? Questo è un piccolo libro che Cory Doctorow ha scritto qualche anno fa, idealmente per rispondere e per puntualizzare una serie di questioni sollevate dal più famoso libro di Shoshana Zuboff, appunto sul capitalismo della sorveglianza, che è stato tradotto anche in italiano qualche anno fa sempre. In questo libro Cory Doctorow si toglie alcuni sassolini dalle scarpe rispetto a una lettura, secondo lui, manchevole di alcuni elementi preponderanti per fare una vera critica posizionata e sensata alle big tech. Com'è strutturato il libro? È un libro abbastanza agile, è strutturato per brevi capitoletti, sono in tutto una trentina, ogni capitolo 2, 3, 4 pagine al massimo, e l'impianto è quello di un pamphlet, quindi non c'è tanto una tesi che viene argomentata e sviluppata progressivamente nel corso del libro, quanto una tesi che viene espressa subito già dall'inizio e poi passo dopo passo semplicemente l'autore costruisce di volta in volta delle argomentazioni differenti per puntellare la tesi che lui propone e porta avanti. Quali soluzioni propone? Il grosso bersaglio di Cory Doctorow è il monopolio. La tesi che lui porta avanti è questa, è molto semplice, dice: noi parliamo di capitalismo della sorveglianza perché non abbiamo risolto il problema dei monopoli, delle big tech. C'è un problema che è prima di tutto legato proprio a una questione legislativa che ha a che fare con appunto le leggi antitrust, la cui mancanza in questo settore è endemico e origina proprio con lo sviluppo delle industrie digitali, però appunto Cory Doctorow, da un certo punto di vista anche per correttezza intellettuale, fa notare che questa situazione di deregulation totale dell'antitrust è una cosa che in realtà poi investe anche tanti altri settori negli ultimi 30 anni, e questo ha portato da una parte quindi a una serie di squilibri nelle società capitalistiche e dall'altro ha portato a una situazione di impasse totale e di problemi congeniti appunto nella industria digitale. Quindi il capitalismo della sorveglianza non potrebbe esistere se non ci fosse una situazione di sostanziale monopolio nel settore. Questa è la tesi che lui porta avanti. Come nasce questa riedizione? Questa è una prima edizione, il testo è del 2020 e noi abbiamo ritenuto opportuno farne una traduzione, proporlo anche in Italia, perché questo tema del monopolio sostanzialmente è un po' come se lo conoscessimo tutti ma facciamo finta di non pensarci mai, e invece si può essere più o meno d'accordo con le tesi di Doctorow, però è l'elefante nella stanza, non si può far finta che non esista questa situazione e andare oltre, cioè nel senso tutto il dibattito per esempio di qualche anno fa sugli algoritmi non si può affrontare fare senza tener conto che la proprietà di questi algoritmi è di 4-5 società in tutto l'Occidente quantomeno, cioè appunto le cosiddette big tech, GAFAM o che dir si voglia. E quindi appunto abbiamo fatto questa traduzione, è uscito qualche mese fa in questa collana che si chiama Postumane per l'editore Mimesis, una piccola collana che abbiamo iniziato a curare come gruppo Ippolita e che ha visto finora appunto due uscite, una è questa di Cory Doctorow, l'altra è il libro Allo scoperto della studiosa Stacey Alaimo, che è una studiosa di neomaterialismo femminista. Qualche parola sul gruppo Ippolita? È un gruppo che si occupa di cultura digitale da tanti anni, abbiamo scritto diversi libri sul tema, Open non è free, nell'acquario di Facebook, Luce e ombre di Google, Tecnologie del dominio, fino all'ultimo che è stato pubblicato proprio poche settimane fa da Agenzia X, che si intitola Hacking the Set. A questa attività di studio e di scrittura da 5-6 anni si affianca anche un'attività di curatela di collane, di libri, quindi collaboriamo con diverse case editrici, soprattutto con Meltemi, per la quale curiamo la collana Culture Radicali, e Mimesis, con la quale abbiamo all'attivo due altre piccole esperienze, una Postumane e l'altra Selene, dove ovviamente in tutte queste collaborazioni non parliamo solo di tecnologia, ma anche di altre questioni che secondo noi sono molto importanti e molto calde e in qualche modo si intrecciano con le questioni tecnologiche proprio per quanto riguarda le problematiche relative appunto all'oppressione, allo sfruttamento, come le nuove forme di femminismi, il pensiero queer, l'antispecismo, eccetera, eccetera. La presentazione del libro Come distruggere il capitalismo della sorveglianza di Cory Doctorow a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 6 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Marco del gruppo Ippolita. Alla prossima! Ciao, grazie a voi! Cristina Anichini delle Commari Edizioni e Anna Suni delle Plurali Editrice presentano il Festival Letterario Diffuso R-Esistenze. Alla terza edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, al Teatro Villa Panfili, sabato 9 novembre 2024 alle ore 15. Bentrovate! Grazie, grazie. Spieghiamo cos'è questo progetto. Questo è un progetto corale di editoria indipendente, siamo tutte piccole editrici, 9 in totale, che ci siamo messe in rete per fare un festival diffuso, quindi l'idea è di avere 3 mesi in cui facciamo delle presentazioni, eventi, book club, reading, bibliomanzie, diverse forme di presentazione di testi per appunto aumentare la visibilità, per crescere insieme e per farci valere in un mercato piuttosto difficile. Siamo partite all'inizio di settembre e chiudiamo questa prima puntata a fine novembre e abbiamo già fatto diverse presentazioni a partire dal Tempo delle Donne di Milano, siamo state al Festival di Flux a Bologna e alle varie librerie nelle varie città e abbiamo identificato un tema che è identità per questa prima puntata. Ogni casa editrice ha individuato un libro dal proprio catalogo e creiamo questi eventi e hanno aderito al progetto anche 25 librerie indipendenti un po' in tutta l'Italia. Com'è stata costruita questa rete? Alcune case editrici che già si conoscono da tempo perché partecipano insieme a varie manifestazioni e quindi si incontrano. Diciamo che siamo tutte case editrici abbastanza recenti, a parte un paio di eccezioni. E quindi ad alcune di loro, tra cui le Plurali Editrici, è venuto l'idea di creare una rete. E quindi attraverso le conoscenze e anche i progetti editoriali, che sono tutti diversi tra di noi, però che hanno delle similitudini, c'è stata un po' un passaparola, una catena che ci ha riunite, quindi noi siamo state coinvolte appunto per conoscenza e le case editrici infatti che hanno aderito a questa rete sono 8 edizioni, Asterisco Edizioni, A Start Edizioni, Capovolte, Le Assassine, Le Commari, Le Plurali, Oso Melero e 7-9. E rappresentiamo territorialmente il centro-nord, cioè da Alessandria fino a Roma, territorialmente rappresentiamo un po' la piccola editoria indipendente, prevalentemente femminile. Com'è stata la scelta dei titoli che state presentando? diciamo che regna la democrazia in questo progetto, per cui quando c'è da prendere una decisione tutte buttiamo giù delle idee, così è stato anche per il tema della prima puntata, quindi ogni casa di tutte ha proposto delle idee, dopodiché abbiamo votato molto democraticamente ed è uscito fuori appunto questo tema dell'identità che ci piaceva a tutte perché è un tema un po' più astratto che si può però discutere, realizzare, analizzare e anche diffondere da diversi punti di vista. E poi ogni casa editrice nel suo piccolo, come diceva anche Cristina, alcune sono proprio micro editrici per cui composte anche da una sola persona, noi forse le plurali siamo tra le più grandi che siamo 4 socie e nel nostro ovviamente complesso editoriale abbiamo discusso quale titolo scegliere per questa puntata e in realtà sono uscite fuori 9 libri, 6 sono narrativa e 3 sono saggi o albi illustrati perché 2 case editrici che sono Oso Melero e 7-9 sono case editrici per ragazzi e ragazze, bambini e bambine e quindi hanno 2 albi illustrati, uno è il libro antirazzista e l'altro è Body Confidence. Poi noi le plurali abbiamo scelto Nera Conforme che è un saggio di una donna nera e grassa che ha vissuto in Italia e quindi riflette sulla sua identità personale di una donna nera e grassa e la cultura in cui vive italiana. E poi ci sono 6 romanzi, La giraffa non c'entra, Case di sale, Stonebatch Blues, Lettere a mia nonna, Stai zitta e Io l'ho amata, che sono anche di autrici che provengono da tutto il mondo, d'Europa, Asia, Africa, America, ed è una bella prospettiva su questo tema. Che cadenza hanno gli incontri e come si svolgono singolarmente? Gli incontri non hanno una cadenza ben precisa, ma noi abbiamo fatto delle proposte alle 25 librerie indipendenti che hanno creato uno spazio all'interno della propria libreria con dei materiali che abbiamo fornito noi, pillette, adesivi, volantini, poster e che chiaramente hanno preso delle copie di ogni libro che fa parte di questa rete e quindi in accordo con le librerie stiamo organizzando degli appuntamenti chiaramente dove essendo case editrici un po' sparse per il centro nord non possiamo essere sempre tutte presenti. Quindi chi è presente rappresenta, scusate il gioco di parole, però rappresenta le case editrici che non possono essere lì fisicamente. E poi attraverso le fiere, e come ha detto Anna, siamo state quindi a Milano, a Pisa, a Bologna, saremo a Firenze con la libreria Alice che ha organizzato una rassegna culturale che si chiama Desiranza e verrà presentato tutto il progetto Resistenza e poi ci saranno anche delle altre piccole presentazioni singolari e poi ci sono altri appuntamenti su Roma, Firenze, insomma questo dipende dalle disponibilità delle librerie e comunque abbiamo un calendario abbastanza fitto che arriva alla fine di novembre e poi ci stiamo organizzando per la seconda edizione che si terrà invece in primavera e vorremmo coinvolgere di più, visto che questo progetto però sta andando avanti abbastanza bene, vorremmo coinvolgere anche un po' più le istituzioni, insomma questo sempre nell'ottica di poter diffondere sempre di più questa idea nuova che è molto originale di questa rete, insomma non ci sono altri esempi simili per ora nell'ambito dell'editoria in Italia. Ci date i riferimenti internet per saperne di più? Abbiamo una pagina Linktree dove ci sono tutti i link agli eventi, alle librerie, ai comunicati stampa e ai singoli titoli ed è linktr.ee/resistenze.editrici e poi ogni casa editrice sulle proprie pagine social. Comunque noi diamo puntualmente informazione degli eventi che sono in programma e in questo siamo abbastanza brave perché ogni casa editrice agisce autonomamente però in maniera compatta con tutte le altre, insomma riusciamo a uscire con le informazioni più o meno su tutte, quindi se si seguono le singole case editrici sui social si viene a conoscenza di tutti gli eventi e le iniziative in programma. A presto! Grazie Federico! Grazie. Ciao! Cristina Anichini delle Commari Edizioni e Anna Suni delle Plurali Editrice presentano il Festival Letterario Diffuso Resistenze. Alla terza edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, al Teatro Villa Panfili, sabato 9 novembre 2024 alle ore 15. Il fumettista e illustratore Roberto Grossi presenta il suo graphic essay La grande rimozione. Alla terza edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, Teatro Villa Panfili, domenica 10 novembre 2024 alle ore 11. Ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Cos'è questo nuovo lavoro? Innanzitutto mi dicono che non è un graphic novel, ma è un graphic essay, cioè è un saggio a fumetti, anche se insomma per me è una categoria del tutto nuova. Diciamo che è un mix di racconto personale, dati scientifici e sociali per spiegare, insomma, e soprattutto cercare di capire perché facciamo tutti finta di non avere l'enorme problema che è costituito dalla crisi climatica, perché tutti i giorni continuiamo a vivere come se nulla stesse succedendo, mentre invece la crisi procede a ritmo esponenziale, ecco. E soprattutto poi, man mano che sono andato avanti nella costruzione del libro, che all'inizio credevo di fare molto velocemente, ho cominciato, raccogliendo dati, a unire i puntini in tutte le direzioni, perché il quadro si presenta come un problema legato a tutto il nostro modo di comportarci, ecco, di come è organizzato proprio il nostro mondo in generale. E finché non si capisce questo punto sarà difficile trovare delle soluzioni, forse la rimozione nasce da qui, non lo so, ci sono tante domande nel libro, ecco. Come nasce tutto? Non lo so, avevo in mente un paio di soggetti, uno era questa cosa qui, soprattutto perché avevo partecipato al libro collettivo di Genova, che ha ripubblicato Supporto Legale nel ventennale, e ho fatto una storia in cui avevo sperimentato un utilizzo quasi dei disegni di immagini evocative senza parole, ma a un certo punto mi ero messo in testa di fare una robetta così. Poi però, ragionando anche con la casa editrice, abbiamo capito che doveva diventare una cosa molto molto più grande, perché altrimenti non sarebbe stata né chiara né efficace. E quindi, mischiando ricordi d'infanzia, notizie trovate sulla rete e poi cominciando a documentarmi su libri e articoli, è partita una raccolta di dati che è durata fino a prima di andare in stampa quasi. È strutturato in capitoli? Sì, è strutturato in capitoli che cercano di affrontare le questioni almeno un po' alla volta, proprio perché il tema si presenta complesso. Un altro dei titoli che avrei voluto poter usare, ma non era forse efficace, però che era una sottotraccia, è proprio quello di unire i puntini. Bisogna cercare di unire tutte le tasselle del mosaico. Noi affrontiamo queste tematiche sempre scomponendole in sottotemi e pensiamo di affrontarli un problema alla volta, invece non è così. Vedendo il quadro più da lontano, cercando di unire i puntini, forse si capisce meglio dov'è il problema, ecco. Finché le si affrontano alla volta non c'è chiarezza e non c'è efficacia. Ecco, quello della prospettiva si traduce anche in immagini, molte sembrano panoramiche da droni o satelliti. In questo libro mi sono quasi riconciliato con la mia iniziale passione per la fotografia. Da piccolo mio padre mi ha messo una macchina fotografica in mano molto presto. Infatti nel libro cito appunto scatole di diapositive che giacciono in cantina, sia di mio padre che era appassionato, sia mie, di mio fratello. Abbiamo documenti di vacanze in mezzo a ghiacciaio e neve di epoche trascorse, e così poi appunto, siccome si è configurato fin da subito come un libro in cui il paesaggio aveva un grosso peso, ho raccolto immagini più possibili, anche perché serviva quasi una documentazione scientifica. Non essendo scienziato ma disegnatore, ho cercato quindi di spingere la rappresentazione su quel terreno lì, insomma, ecco, e magari cercando con un aspetto più evocativo di supplire alla, diciamo, impreparazione scientifica. Non volevo fare un libro di dati e basta, perché questo problema secondo me non si affronta con i dati, cioè bisogna prendere consapevolezza che siamo nella merda, per dirla proprio come eufemismo, e quindi se bisogna ammettere di avere un problema non è che a uno lo puoi mettere sul lettino psicanalista e sciorinargli i numeri, ecco, secondo me non funziona, quindi forse con delle immagini evocative spero che si possa capire meglio la questione. C'è anche un personaggio barbuto che torna a più riprese. Sì, il professor Zec l'ho chiamato perché a me piace spesso usare persone che esistono, immaginarle come se fossi in un film e li faccio recitare. Allora lì mi sono permesso di usare Slavoj Zizek, perché appunto quando vedo i suoi video in rete mi fanno prima di tutto ridere parecchio, quindi mi sembrava un personaggio, il modo come gesticola, come va parla, insomma, mi sembrava già estremamente caratterizzato. Quando l'ho visto ho detto no, vabbè, lui devo usarlo, mi serve questo ruolo per forza. C'è anche poi il personaggio del giornalista che è il suo controcanto, insomma, che forse è quello anche più inquietante, insomma, quello da cui non frega assolutamente niente di quello che gli racconta il professore. Anche in base a tutto quello che hai studiato e alle varie suggestioni che hai accumulato nel corso del tempo preparando il libro, dove ci stiamo indirizzando? In territori inesplorati innanzitutto, perché stiamo giocando con forze al di là della nostra anche immaginazione. Non è mai successo nella storia del pianeta che si verificassero dei cambiamenti in così breve tempo. Cioè, per dirla proprio banalmente, insomma, quello serve la parte sul mio racconto personale. Non è normale che una persona nell'arco della sua vita veda scomparire i ghiacciai dove erano praticamente intatti da bambino. Quindi vuol dire che la curva è esponenziale, quella dei cambiamenti, e che sta accelerando sempre di più. Quindi servono delle azioni immediate, solo che queste azioni immediate si scontrano con degli interessi enormi. Io credo molto più che con le nostre abitudini, le nostre pigrizie, ma sono invece degli interessi enormi che ci hanno anche impigrito la mente e ci fanno pensare che non si possa cambiare, mentre invece siamo come nel feudalesimo, e se qualcuno avesse chiesto a un contadino del Medioevo dicendo ma un giorno tu andrai a votare e eleggerai dei rappresentanti, quello l'avrebbe preso per idiota, ovviamente, il cretino totale. Però senza aspettare il tempo che passa dal Medioevo a oggi, dobbiamo posizionarci quasi, ecco, nell'attimo prima della Rivoluzione Francese, cioè un attimo prima si era nel Medioevo, l'attimo dopo nell'epoca moderna. Dobbiamo fare un salto repentino di questo tipo, secondo me, se no non ne usciamo. Dal punto di vista stilistico, quale tratto hai prediletto? Interessante questa domanda. Io, siccome, come ti ho detto prima, volevo sbrigarmi, speravo di sbrigarmi, perché sai, ingenuamente pensavo ma guarda, se ci metto più di 2 anni questa cosa sarà talmente ormai digerita che la sapranno tutti e che tutto comincerà a essere superato, quello che dico. Invece siamo peggio di prima, di anni fa. Quindi ho cominciato a disegnare a matita, cercando di saltare dei passaggi. Poi in realtà l'uso del colore è stato comunque lungo, però alla fine questa matita è diventata invece, visto che la rapidità era definitivamente accantonata, è diventato un modo per avere uno stile un po' più caldo, perché avevo paura che già raccontando un tema che poteva essere inquietante, fare dei disegni troppo gelidi avrebbe peggiorato anche la cosa, insomma. Invece forse la matita dà un tono più anche nostalgico al tutto. A presto! Grazie, ciao a tutti, ciao ciao. Il fumettista e illustratore Roberto Grossi presenta il suo graphic essay La grande rimozione. Alla terza edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, Teatro Villa Panfili, domenica 10 novembre 2024 alle ore 11. Con l'illustratrice Franny Thierry per presentare la sua mostra di acquerelli leggere a Roma, a Valentia, da venerdì 11 ottobre 2024. Ben trovata. Ciao, grazie. Che cos'è questa mostra? Questa è una mini mostra, la chiamo, perché in realtà sono pochi pezzi di acquerelli per lo più che raccontano le donne sedute al bar di Monteverde. È una mostra meno che chilometro zero, perché è stata tutta dipinta più o meno a 300 metri da casa mia. Io spesso la sera vado al bar, ci sono spesso altre persone al bar e io le scarabocchio e poi a casa le acquerello. Come nasce l'idea di una mostra lì? Perché era da parecchio tempo che volevo fare qualcosa nel quartiere, perché credo che sia un quartiere con moltissime, non solo potenzialità, ma anche anime importanti, e però molto spesso poi mi ritrovo a fare delle cose in altre zone. E questo bistrò ha aperto da poco, è aperto proprio con l'intenzione di diventare un luogo di aggregazione dove si possano sperimentare diverse forme d'arte o di comunicazione, quindi mi sembrava perfetto disegnare e esporre le donne sedute al bar in un bar di quartiere. Era come un piccolo cerchio che si concludeva. Il fatto poi che ho trovato veramente molto entusiasmo da parte delle due ragazze e le ragazze che gestiscono questo bistrò ha reso tutto molto più facile. Da quante opere è composta la mostra? 12 acquerelli e poi c'è un trittico che non è stato realizzato per l'occasione, ma proveniva da una mostra grande che avevo fatto nel 2011, ispirata a Jean Vigo a proposito di Nice, perché c'era questa donna seduta al bar e mentre dipingevo questi acquerelli avevo questi quadri nel mio piccolo studio e dicevo ci picchia, ma in realtà sono più di 15 anni che dipingo questa donna seduta al bar. Lei era a Nizza, queste sono a Monteverde e si sono incontrate a Via Fonteiana. Quanto tempo coprono questi lavori? In quanto tempo li hai realizzati? Sono lavori realizzati quasi tutti nel 2024, tranne uno. E oltre alle donne sedute al bar ci sono le persone che aspettano il 44, che è l'autobus di quartiere, una sorta di miraggio, siamo una sorta di banda, di tribù che attende il 44 quotidianamente, io di meno perché lavoro in casa, ma ho raccontato anche questa incredibile fiducia e quasi meditazione nell'aspettare l'autobus. Diciamo che il tema dell'attesa è un tema ricorrente per me, io spesso dipingo, scarabocchio le persone che aspettano nelle waiting room dei ospedali, di medici, poste, che sono luoghi che ahimè ci tocca a tutti quanti frequentare spesso, e in questo caso quando arriva il libro nell'attesa non è più attesa, diventa un'altra attività meravigliosa che è quella della lettura, che è anche qualcosa che andrebbe molto recuperata. Il sottotitolo della mostra infatti è Donne che leggono, donne che aspettano, donne che leggono mentre aspettano. Sì, una cosa che mi entusiasma molto, il primo che ho fatto, c'era questa donna molto elegante, vestita benissimo, che si è seduta in una posizione veramente elegantissima e io la invidiavo, dicevo mamma mia che classe questa donna. A poco mentre leggeva vedevo che si stava tutta storcendo, diventava scomposta e più era scomposta più dicevo accipicchia, in questo momento il libro l'ha veramente catturata. Che invidia, non si sta più rendendo conto di dove sta e quindi aveva le gambe storte sotto queste zampe del tavolino di metallo tutte intrecciate, la gonna che si era un po' alzata, e quello è stato il momento che mi ha fatto venire voglia di raccontare anche le posizioni e le ombre e il modo in cui la gente si siede, che è divertentissimo secondo me. Ci racconti anche un po' il tuo percorso artistico? Io nasco come illustratrice, mi sono diplomata allo IED tanto tempo fa in illustrazione per l'infanzia e ho iniziato facendo libri per bambini e a un certo punto mi sono innamorata della grafica e ho lavorato come grafica, tuttora lavoro come grafica e contemporaneamente ho sempre dipinto con tantissime tecniche. Io spesso cambio stile, più che cambiare stile cambio tecniche, cambio modo di raccontare le mie storie che poi invece forse sono sempre un po' le stesse. C'è stato un periodo che io ero un po' confusa su questo, perché vedevo tanti colleghi che dipingevano in maniera chiara, con uno stile ben definito, mentre lo cambiavo. Ho avuto l'enorme onore di conoscere Tommy Unger alla Fiera del Libro di Bologna tanti anni fa e gli chiesi questa cosa, perché lui in realtà passava dall'illustrazione erotica ai libri per bambini, a manifesti contro la guerra, e lui in realtà un po' mi spronò, mi disse no, tu devi raccontare la tua storia, poi lo stile verrà, ed è un po' quello che tuttora cerco di fare, insomma, di rincorrere questo stile. Questi sono acquerelli, tu hai una tecnica che prediligi? L'acquerello. L'acquerello lo amo moltissimo e feci anche il corso con Arcadio Robbato a Sarmede, nella scuola di Sarmede, e l'acquerello mi piace perché stupisce, perché non lo puoi sempre guidare, alcune volte ti guida lui, e mi piace perché è una tecnica anche abbastanza veloce per come la utilizzo io, ovviamente può essere utilizzata in molti modi diversi, e mi piace perché si può fare anche in un angolino di un tavolino al bar, non puzza, non sporca, quindi è molto versatile anche per potersi portare in giro insomma uno sketchbook. E però un'altra cosa che io adoro fare è scarabocchiare, cioè la mia seconda tecnica è prendere la prima penna che trovo e fare disegni fatti male, la trovo una cosa super liberatoria. Ci dai i tuoi riferimenti web per saperne di più? Io ho un sito che è frennythierry.com, ho un cognome difficile da ricordarsi come si scrive, ogni tanto dico ricordatevi Thierry, il giocatore, ma con una R sola, e sui social sempre sono frennythierry, e ogni tanto troverete anche il nome Papadam, che è il nomignolo con cui facevo street art quando ero più giovane. La mostra di acquerelli leggere, donne che leggono, donne che aspettano, donne che leggono mentre aspettano. A Roma, al Valentia, da venerdì 11 ottobre 2024, un saluto e un ringraziamento a Franny Thierry. A presto! Grazie mille! con Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana per quanto riguarda gli eventi culturali, in particolare il teatro. Ciao Simone. Eccoci di nuovo a pensare al teatro che si fa e anche a quello che si racconta, perché se si fa e poi nessuno lo racconta, voglio dire, che si fa a fare? Questo direbbero, diciamo, i meglio informati. Ma noi che siamo i peggio informati andiamo invece a pensare alle nostre cose. Allora, dunque, cominciamo da Trend, le nuove frontiere della drammaturgia britannica, ideata la rassegna da Rodolfo Di Gianmarco, ma non più diretta da Rodolfo Di Gianmarco, al Teatro Belli. 5 e 6 novembre, ovvero sia oggi e domani, per il lavoro con la regia di Enzo Aronica, Leopards di Alice Metcalf, e racconta di due sconosciuti che si incontrano per la prima volta nel bar di un hotel. L'incontro però non è casuale, è un incontro tra generi, generazioni e geni. Andremo a scoprire quale sarà l'equilibrio tra i due personaggi, Ben e Niala, interpretati da Riccardo Barbera e Liliana Mele, appunto al Teatro Belli, oggi e domani, 5 e 6 novembre. Mentre invece 8-10 novembre, sempre al Teatro Belli, una regia di Maurizio Mario Pepe, Lela & Co. di Cordelia Lynn, questo test tratto da una storia vera e realizzato con De Sara Bosnia, con Giorgia Salari in scena e Francesco Bonomo. Siamo in una storia che appunto racconta di una narrazione di vite, in qualche modo, insomma. È una storia che riguarda uomini e riguarda soprattutto donne, e Lela è proprio una di queste donne che finalmente racconta la vita di un piccolo villaggio di montagna, un luogo dove le donne si prendono cura di bambini e vecchi. All'interno però di questo bruciante racconto, di questo paesaggio di montagna, questo, ecco, è un monologo con due attori. Questo già ci potrebbe far immaginare un po' il mondo che soggiace a questo spettacolo, e a volte le storie sono una bugia, ma possono diventare verità a furia di raccontarle. Con questo assunto direi che rimandiamo alla visione di Lela & Co. dall'8 al 10 novembre al Teatro Belli. E andiamo avanti tornando un po' indietro, perché nel periodo non collegato, così dicevano quelli bravi, diciamo, che si occupavano di collegamenti calcistici la domenica, di tutto il calcio minuto per minuto su altre radio, ma noi nel periodo non collegato abbiamo visto debuttare al Teatro Vittoria la trilogia dei Poveri Cristi, tutte e tre gli spettacoli della trilogia firmati appunto da Ascanio Celestini, che è stato in scena in questi giorni con Rumba e prosegue con gli altri due spettacoli. I giorni 5, 6 e 9 novembre sarà in scena Laica, e mentre invece 7, 8 e 10 novembre in scena ci sarà Pueblo. E si tratta di un viaggio cominciato molti anni fa, in cui Celestini pensava a un parcheggio di una periferia, ovunque in una città, in una metropoli, Parigi, Roma, New York, qualunque essa sia, e pensa alla vita degli ultimi, alla vita di coloro che non hanno spazio per esistere secondo la nostra civiltà capitalista, diciamo, ecco. Quindi c'è un incontro fra ultimi e che poi si sintetizza nel campione in qualche modo della relazione con gli ultimi, appunto il San Francesco che nel recente Rumba prende la scena in qualche modo, la parola, e viene raccontato per le parole in suono di Ascanio Celestini, che si inscena sarà sempre con Gianluca Casadei alle musiche. Quindi fino al 10 novembre appunto proseguono Laica e Pueblo, i due spettacoli che compongono la trilogia al Teatro Vittoria. Procediamo ancora un po', perché al Teatro, per tutti che non si vede, al Teatro Furio Camillo inizia proprio questo weekend la rassegna internazionale di circo teatro Battiti, sarà in scena fino al primo di dicembre. E questo weekend andremo a vedere il cabaret, così però è puntato, finisce con la è accentata, spettacolo di arte varia della compagnia della settimana dopo, così si chiama, la compagnia, cioè lo spettacolo di arte varia con imprevedibili giochi, una sorta di varietà al laboratorio, cioè con vecchi e nuovi numeri. Poi il 9 novembre vedremo la compagnia Rasoterra con Boa, il 10 Imperfetta, l'ultimo lavoro di Paola Berton, sempre teatro circo, che esplora il significato di perfezione attraverso gli interrogativi che la protagonista si pone. Quindi questo per Battiti da sabato, da venerdì 8 al teatro Curio Camillo. È arrivato finalmente il tempo di cominciare anche la stagione o le stagioni, insomma, del teatro Biblioteca Quarticciolo, sempre più fuori. Quarticciolo, sì, insomma, non solo Quarticciolo, della stagione di Crampi, in realtà, sempre più fuori, è questo festival multidisciplinare che tiene insieme più spazi, tra cui il Teatro Biblioteca Quarticciolo, però anche, insomma, il Crampi è in qualche modo è riconoscibile con il Teatro Biblioteca Quarticciolo. Da ieri ha preso il via la nuova stagione e, insomma, segnalo la presenza di tanti personaggi cui autoritratti saranno in scena, comunque raccontati in spazi pubblici. Ha aperto l'autoritratto di Leonardo Manzan in dialogo con Sabrina Fasanella proprio ieri, il 4 di novembre, mentre invece questo weekend ci si sposta al Goethe Institute per la proiezione del film Berlin is in Germany di Hans Stör, e mentre invece domenica 10 e lunedì 11 al Quarticciolo facciamo lo spettacolo Cometa, creazione per il pubblico giovane di Roser Lopez e Spinosa. Poi, appunto, se ne parlerà ulteriormente andando avanti, ma sempre l'11 alla Link Academy in cattedra ci sarà per l'autoritratto Giuliano Strappinato, mentre invece l'incontro tra Katia e Fasio e Elisa Perlazzo Anatoli sempre l'11 lunedì sarà la Biblioteca Europea. Quindi, insomma, tanti appuntamenti, andiamo a cercare in rete il programma, appunto, di Sempre più fuori. Io segnalo poi premitutto-teatro.com, Dante Cappelletti, 7 e 8 novembre le semifinali saranno, appunto, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, l'edizione numero 18, esatto, se non vado errato, l'edizione numero 18 per le semifinali del Cappelletti. Poi Fortezza Este, 8-9 novembre per la compagnia Garbugino Ventriglia, attenzione, stiamo parlando di artisti decisamente importanti, notevoli, con O Pesce Palla, La vita dalla terra, uno spettacolo onirico, delicato e potente che ruota attorno all'opera di Miguel de Cervantes, autore, appunto, del Don Chisciotte. Appunto saranno Don Chisciotte, Ronzinante e Sancho Panza in scena per questo Pesce Palla, che sarà, appunto, a Fortezza Est 8 e 9 di novembre. Procediamo con lo spazio Diamante, perché saranno due gli spettacoli di questa settimana, e precisamente Barabba, il testo di Antonio Tarantino con la regia di Teresa Ludovico, in scena Michele Schiano di Cola, dal 7 al 10 novembre, mentre invece stessa data ma nell'altra sala per lo spettacolo The Wasp di Morgan Lloyd Malcolm con la regia di Valentina Cognatti e in scena per l'Ambrosini Silvia D'Anastasio. Io direi che in questo caso noi dobbiamo sempre semplicemente andare a vedere di che cosa si tratta, e quindi andare anche a scatola un po' chiusa. Barabba e l'altro Cristo si muove in una torre di sbarre di ferro, in una prigione che in qualche modo è una prigione che conosciamo, insomma. Barabba è condannato alla colpevolezza in terra, mentre invece, insomma, no, nel racconto biblico Gesù con la morte è chiamato invece alla redenzione dell'intero genere umano. Mentre invece, per ciò che riguarda l'altro spettacolo, quello di Valentina Cognatti, di Margot Theater Company, The Wasp è un thriller psicologico con un andamento inquietante, una trama ricca di colpi di scena, un testo invece intimo, però anche crudo. Ci sono due donne, Erin e Kate, che si incontrano dopo molti anni e nel loro dialogo emergeranno gli eventi che l'hanno portato a stare lontano per tanto tempo. Dal 7 al 10 novembre The Wasp al Teatro dello Spazio Diamante insieme a Barabba. Dunque, direi che possiamo andare avanti, segnalare che al Teatro Basilica Vetrano Randisi riportano in scena per non so quanti anni in realtà ormai il Totò e il Vice di Franco Scaldati, spettacolo ormai storico, il sodalizio tra questi artisti insomma dura da oltre 40 anni, la poesia di Franco Scaldati è nella loro voce da tantissimo tempo, e anche Totò e Vice appunto, no? Sono due clochard surreali nate dalla fantasia dell'autore palermitano e sono legati da una grande amicizia reciproca e assoluta che mi fa stare in bilico tra il mondo terreno e il cielo, un po' un testo diciamo che ha qualcosa di becchettiano, qualcosa che ci riporta sicuramente al grande Novecento della drammaturgia europea e un po' sicuramente anche alla parola siciliana che Franco Scaldati così bene interpretava. Dal 7 al 10 novembre al Teatro Basilica. Io vado pian piano verso la conclusione citando L'Altrove Teatro Studio, dove un testo per il sesto anno consecutivo torna in scena, quello che si firma Le Sorellastre di Ottavia Bianchi, che sarà anche in scena insieme a Patrizia Ciabatta, Livia Castiglione, Giulia Santilli, la regia è di Giorgio Latini, dall'8 al 10 novembre all'Altrove Teatro Studio, una commedia con dei risvolti drammatici, sono quattro sorelle, Emma, Emilia, Elvira e Ughetta, che si ritrovano al funerale, in realtà la veglia funebre per la madre appena morta, quindi si ritrovano venendo da contesti diversi o da città diverse, si ritrovano attorno a un cadavere, ma forse in qualche modo alla resa dei conti di vecchie ruggini che non sono ancora state sopite. Quindi 8-10 novembre per Altrove Teatro Studio con Le Sorellastre di Ottavia Bianchi. E poi si rimane di parlare di Roma Europa Festival, gli spettacoli di questa settimana, con l'arrivo a Roma di un grande artista che è Oscar De Summa, che oggi e domani sarà in scena con Rette Parallele, Sono l'amore e la morte, e si racconta questo spettacolo, ricordo della giovinezza, la storia di una ragazza da immaginare e reinventare, la scoperta della morte di questa Maria Rosaria, una ragazza che abitava accanto appunto a casa di Summa quando da ragazzo viveva in Puglia e che torna fuori in qualche modo, è un processo che riporta a riconsiderare la connessione tra la ragazza e il giovane che era l'autore quando conosceva questa ragazza. Faccio qualcosa di leopardiano, un po' la Silvia leopardiano insomma che emerge un po' dal racconto di Oscar De Summa. Quindi al Mattatoio oggi e domani 5-6 novembre per Oscar De Summa con questo Rette Parallele, Sono l'amore e la morte. Sempre al Mattatoio andremo a vedere per anni luce l'offerta di Usine Baug con Mezzo Palco e lo spettacolo si chiama Anse, sta in scena oggi e domani, martedì e mercoledì, un monologo per più voci, un discorso interiore in un corpo solo. Le voci dei performer che sono contemporaneamente narratori e personaggi sono in scena e altrove. È la storia di un corpo in un ritratto in un mondo proteso, raccontata da molto vicino e da dentro e dagli spazi che lo attraversano. Quindi c'è anche un pensiero performativo dietro questo ansia, una sera qualunque, una breve fase qualunque, un'ansia della vita di una persona qualunque dalle 19 di un martedì sera alle 7 del mattino dopo. Che cosa succederà in questo momento? Lo scopriremo soltanto vedendo questo ansia oggi e domani al Mattatoio per anni luce. Poi il 6 novembre che è domani. Ci andiamo a vedere anche Arno Schwitmacher, questo suo nuovo spettacolo, 30 apparenze fuori dall'oscurità, e l'oscurità che può essere disorientante, può essere minacciosa, appunto l'ignoto, l'oscuro, il vuoto, si misurano, si fronteggiano invece con il loro opposto. Siamo al Teatro Vascello e ci saremo domani, dopodomani, 6 e 7 novembre, per sempre Roma Europa Festival. Poi continuiamo con la danza, anche qui il venerdì 8 novembre a Villa Medici, Alice Ripoll con Accordo, e segue Claudio Castellucci e compagnia Moro con Mora con Sahara, in questo caso il Teatro Ateneo alla Sapienza. E io vado a segnalare anche questo lavoro che mi interessa molto, di Roberto Abbiati con Johannes Schlösser, che appunto è un lavoro dedicato a Ref Kids, un'installazione musicale dedicata al mondo dei volatili e pensata per i più piccoli, da venerdì 8 sarà fino a domenica 17. E poi sicuramente, ecco, c'è da considerare l'ultimo delle offerte della settimana, La vita segreta degli anziani, Mohammad El Khatib, 9-10 novembre al Teatro Vascello, presenta questo lavoro che parte da alcune domande. La fine della vita corrisponde alla fine dell'amore? I nostri ultimi anni di vita desertificano anche i nostri desideri? Ecco, Mohammed El Khatib torna a Roma Europa Festival per indagare biografie, storie personali, per cercare di interrogare la nostra esistenza. E al centro ci sono l'amore, il desiderio, e in scena un gruppo di interpreti tra i 74 e i 102 anni a raccontare le proprie storie d'amore, sentimentali o carnali. E trovo che sia particolarmente interessante, intrigante questo progetto. Sabato 9, domenica 10, appunto al Teatro Vascello per Roma Europa Festival. E con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.